Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno. Buongiorno chef, buongiorno. Senti, esistono persone più fortunate di te sulla terra? Esistono posso toccarti perché c'è il distanziamento sociale. Dobbiamo rimanere, giustamente, lo ricordiamo, con tutte le precauzioni del caso, perché è importante non mollare le precauzioni e le attenzioni. Però, ma perché dici questo? Perché hai cucinato per il nostro presidente, per il Presidente della Repubblica Mattarella, per i nostri, per gli amici, Presidente Mattarella, Presidente Steinmeier, esatto, tedesco. È stata un'emozione. Io sono pieno di curiosità, voglio sapere tutto. Se ti ha chiesto lui siciliano, probabilmente avrà la cucina di pesce. Però ho visto che hai fatto il tuo classico, cioè uno dei classici della cucina milanese, anche perché l'avete a Milano, che è zafferano e riso, che è quello che lui mangiò in Expo 5 anni fa, nell'occasione di Expo, per cui io feci questo riso per dare una veste nuova a quel vecchio, tra virgolette, piatto di risotto alla milanese. E quindi abbiamo ripreso questo, abbiamo ripreso un pesce, poi un tiramisù all'italiana, devo dire, grande esperienza. Va bene, mi racconterai tutto durante questa puntata di Mangia Come Parli, voglio sapere assolutamente tutto. Vi ricordo che c'è un numero di SOS Oldani, che è il 349-239-0191, e vi ricordo anche, anzi ve lo dico, forse non lo sapete, che il più goloso, il più gustoso degli SOS Oldani riceverà una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli, per cui insomma, voglio dire, c'è un ulteriore stimolo a fare 349-239-0191 i vostri messaggi vocali per i vostri SOS Oldani. Oggi parliamo di legumi, bellissimo tema. Quindi cucina ricchissima di gusto. No, capisco che tu possa dire povera. Era proprio uno stereotipo che volevo che tu smentissi. Smentiscimelo. Assolutamente, il legume è molto importante, e soprattutto è molto importante che per chi non vuole seguire una dieta con la carne o con il pesce, quindi anche per adoro i vegani. Adoro i legumi, okay? Adoro i legumi, e adoro anche i neo-italiani di Beppe Severgnini, che è con noi. Ciao Beppe, come stai? Questa connessione fra i legumi e i neo-italiani dovrò rifletterci per molto tempo, ma mi piace. Guarda, vabbè, che non è male, perché i legumi sono semplici, nell'immaginario e nelle etichette sono considerati anche un po' poveri, poco con la puzza sotto il naso rispetto, però di grandissimo gusto, di grande sostanza. E se esageri ti viene mal di pancia, che anche questo, esatto, va bene per l'Italia, per l'Italia ti vogliamo bene. Il mio è un libro, diciamolo, io non sono un po'. Il tuo è un libro in cui si riflette sull'italianità in questo, dopo questo lockdown, dopo questa bufera, dopo questo temporale, e ci sono dei passaggi anche sul cibo, perché io partirei proprio da qui, nel senso, nel costruire un ritratto dell'Italia, quanto pesa il cibo? Perché è vero, per esempio, che c'è, tu dici, sappiamo istintivamente quello che è buono e genuino noi italiani, forse più di altri popoli, no? Allora, ho scritto questo specie di manifesto. Giocato vuol dire che bisogna sempre prendere con un po' di autoironia questa cosa, però il fondo è serio. 50 motivi per cui siamo contenti di essere italiani. E mi è stato detto, Beppe, sei troppo ottimista. Il punto è, se noi ci rendiamo conto dei nostri punti forti, forse possiamo lavorare meglio sui nostri punti deboli. Questa è la mia idea. E io sono d'accordo. E io pure. E non dobbiamo mai cambiare, secondo me. Cioè, io non cambierei. E tra i punti forti, cari ragazzi, ma lo sapete, non perché sono ospite vostro, è il modo in cui noi ci alimentiamo e beviamo. È fondamentale, abbiamo fatto scuola nel mondo per dei motivi, e io ho provato, ce ne sono due, c'è questo che tu hai citato, perché sappiamo, uno dei 50 motivi è perché sappiamo istintivamente cosa è buono e genuino, l'altro è perché il vino è un'educazione sentimentale e il caffè è un armistizio, e ce n'è un altro ancora che mi sta molto a qua, perché ci divertiamo senza essere sbronzi, e ce n'è un altro è perché nei ristoranti sorridono anche quando viene il temporale. Quindi questa mi è piaciuta, questa frase. Questa secondo me è anche un riferimento personale, no? Questa cosa del temporale. Beh, confesso, sì, tra l'altro mio figlio ha scelto il mestiere di Davide, e lo ha 27 anni, lo fa con una grande passione, sono nella campagna cremasca su un lago di fiume, hanno anche gli spazi, stanno andando molto bene, ma in un anno e mezzo che sono aperti si sono beccati un'inondazione devastante, che ha un metro d'acqua, sono vicino al fiume, un uragano l'anno scorso in agosto, la pandemia. Ma la cosa incredibile è che questi ragazzi rimbalzano, si mettono lì, ripuliscono, rifanno, ripartono, e questo posto è un posto meraviglioso. È l'energia che dovrebbero avere tutti i giovani, se me lo permettete, soprattutto nel mondo della cucina, della gastronomia e dell'ospitalità, perché senza questa energia non si può andare da nessuna quindi parte. Quindi si può sorridere anche dopo un temporale. Io li ammiro molto, quindi certo. Non è una cosa... Posso fare spada una volta? Il posto si chiama Sarius al lago, è a Sernano, vicino a Crema. Tra l'altro è pieno di ragazzi giovani e Davide, credimi, la chef che ha 28 anni, è bravissima, è una ragazza di qui Bassa Bergamasca, perché è al confine il posto fra Crema e la provincia di Bergamo, si chiama Marianna Zigliati, fa dei risotti formidabili. Vabbè, ma andiamo. Ed è giusto che io segnali, come se c'è un giornalista bravo. Ma andiamo, andiamo. Scusa, stasera io vado davvero. Andiamo. Allora io l'ho già promesso tante volte a Beppe, non sono mai riuscito. Adesso organizziamo la puntata. Ok, allora, andiamo. Con tutti i crismi e tutte le cose, andiamo. Va bene, devo dire che esiste una sorta di epica del quotidiano, no? Dei ristoratori in questi mesi, in maniera particolare dei ristoratori, degli albergatori, del sapersi risollevare dopo le bufere. Il lockdown e la pandemia è una bufera con la B maiuscola. Come sono gli italiani? Come stanno cambiando? Stiamo nei ristoranti, che poi è anche la risposta alla tua domanda. Per esempio, io credo che i proprietari devono andare incontro ai ristoratori, perché con i fatturati crollati anche del 70 o dell'80%, un ristorante non può pagare l'affitto di prima. E alcuni proprietari sono stati intelligenti, non hanno neanche aspettato, sono andati incontro. Vero, altri vero. Purtroppo no, e tra l'altro hanno l'obbligo, c'è stata una sentenza di un tribunale qualche giorno fa, di rinegoziare. Ecco, anche gli italiani, ci sono i generosi e ci sono gli egoisti. Secondo me i generosi sono di più. Però Beppe, io posso interromperti un secondo? Anche per i proprietari dell'immobile, come lo sono io, qualcun altro, siccome quelli che sono affittuari vengono, come hai detto tu, in alcuni casi aiutati, in altri casi per i proprietari c'è qualcun altro che dovrebbe pensare per poter far sì che anche i proprietari degli immobili che possano agire bene. Ecco. Certo, ma è chiaro. Cosa dici di questo? Dico che hai ragione. Non voglio far polemica, però, attenzione. Dico comunque, c'è una differenza fra lavoro e rendita. Secondo me prima devi proteggere il lavoro. Il ristoratore, d'accordo. Lo dico a te, se è un ristoratore dà lavoro alle persone. Se quello chiude, rimangono a casa un sacco di gente. No, è chiaro, la rendita è importante, non l'ho mai demonizzata, certo. Anzi, no? Ripeto, siamo una famiglia agricola, abbiamo terra, eccetera, però resta una rendita. Ci fermiamo solo un attimo e poi ripartiamo. Questo concetto degli italiani che possono godere, che possono essere felici senza essere sbronzi, è molto divertente. E poi entriamo qui nella crema di fagioli al nero di seppia e zenzero. Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Mangia come parli. Allora, siamo con Beppe Severgnini in questa puntata dedicata ai legumi, i legumi, lo voglio dire per chi non lo sapesse, sono uno dei 7 gruppi degli alimenti di base, sono un alimento importante, sono poveri di grassi, sono ricchi di fibre, sono utili per l'intestino, hanno una marea di proprietà positive, il fosforo, il calcio, il ferro, sono ricchi di vitamina C, sono considerati anche antinfiammatori perché aiutano a controllare tutta la risposta all'insulina del corpo, insomma sto diventando quasi un secchione. Ed è per questo che vanno integrati nelle diete vegane, dove non hai la proteina di origine animale, quindi carne, pesce o addirittura uova, formaggi, ma appunto il legume che ti aiuta ad avere le energie giuste per poter vivere bene. Ecco. Assolutamente, quindi è importante anche questo aspetto nutritivo. Io volevo tornare ai neo-italiani di Beppe Severgnini. Questa cosa io devo dire, io adoro fare i viaggi, ho fatto l'Erasmus a Londra, è stato forse l'anno più bello della mia vita, almeno della mia vita post-adolescenziale di quegli anni lì, però questa cosa che tu scrivi è perfetta. Cioè, gli italiani hanno una passione, un'abitudine, un istinto per il gusto e per la bellezza che è diverso. Cioè, è un equilibrio. Non abbiamo bisogno di sbronzarci per essere felici, no? Cioè, ci piace anche bere due bicchieri di vino buono piuttosto che... Poi, per carità, c'è anche la componente dell'allegria e del divertimento sfrenato, e ci mancherebbe altro, e non demonizziamo. Però questa abitudine a riconoscere la bellezza, anche nel poco, anche nel giusto, la qualità più della quantità, è una cosa degli italiani? È molto una cosa degli italiani. Io ho veramente tentato di fare un ritratto, un ritratto dopo 15 anni, nel 2005 ho scritto La testa degli italiani, e con Neo Italiani riprovo a fare il ritratto a tutto tondo, anche per noi ma anche a beneficio degli stranieri. Quel libro è stato tradotto, penso, in 14 lingue, quell'altro, e qua è il tentativo nuovo. Questa cosa è fondamentale, su altre cose possiamo discutere, ma che noi italiani abbiamo una cultura del bere, del vino in particolare, che uno si diverte bevendo un vino buono, ma sbronzarsi vuol dire che è andato qualcosa storto, non è il culmine gioioso di una serata come in altre culture, c'è una grande serata, ci siamo sbronzati. Devo dire, per onestà, che le cose vanno un pochino peggio, perché la nuova generazione, che io adoro e difendo, e nel libro c'è spazio anche per loro, però quest'idea dello sbronzarsi come obiettivo della serata è più della nuova generazione che della nostra, per esempio. Però questo non c'era. Aggiungo una cosa, sì? Se posso, che non riguarda l'alcol, ma il cibo. Quando la frase, perché uno dei motivi per essere italiani, perché sappiamo istintivamente cos'è buono e genuino, è vero, uno che ha di fronte un risotto, non quello di Davide, che è anche un deficiente, capisce che è buono, ma anche un risotto fatto in casa, noi sappiamo immediatamente se è buono o non è buono, se una pasta è cotta, se è un sugo, perché veniamo da quella storia lì e perché la nostra tradizione alimentare, Davide sono certo che è d'accordo, è nata dal basso, è nata dalle famiglie, è nata dalla campagna. La mamma di Davide, che è bravissima, città, che è la vera origine del successo del figlio. Come quella francese. No, è vero, però quello che dicevo io, questa pandemia, ahimè, con tutto quello che è successo e quello ci stiamo convivendo ancora, e per un po' di mesi convivremo ancora con questo virus, però ha fatto sì che si resettasse un po' il tutto, perché secondo me si stava andando un po' troppo sulla quantità. Tu dicevi poco fa, Pier, quantità, qualità. Devo dire che adesso noi alla riapertura del ristorante dal 4 di giugno, poi abbiamo fatto 15 giorni di vacanze in agosto, abbiamo riaperto i primi settembre, vedo che la gente adesso comincia a riprendere in mano quello che era nostro, quello che era italiano, cioè la qualità. Per cui la qualità anche nel vino, noi abbiamo passato, Beppe, negli anni 80 il metanolo in Italia, cioè siamo riusciti a fare veramente una magra figura in tutto il mondo per quello che era l'enologia. Poi abbiamo recuperato, siamo sempre al recupero. Credo che con questo momento così difficile, così particolare, da qui partiremo per quello che diceva Pier, cioè per la qualità assoluta. Per la qualità, che devo dire, è un marchio di fabbrica. Io non ho cucinato per Mattarella questa settimana, quindi questa gioia non l'ho avuta, a differenza del mio amico Dani, ma ho avuto una piccola grande gioia l'altra sera, perché ho avuto la possibilità di cenare all'ambasciata di Francia in Italia, Palazzo Farnese, uno dei palazzi più belli, e c'era un simpatico collega di Le Monde che mi raccontava che assolutamente pensiero comune, è un po' una battuta affettuosa, ma che dà l'idea, dire che la sede dell'ambasciatore di Francia in Italia, che è il signor Massé in questo momento, in piazza Farnese, viene considerato il posto più bello della République Française, cioè viene considerata quel palazzo lì di Roma, e per la Francia è un paese meraviglioso, insomma, dal punto di vista delle bellezze. Però insomma i francesi dicono questo, dicono che la sede dell'ambasciatore, che è una cosa incredibile su piazza Farnese con la vista sul Campo dei Fiori, sia il posto più bello dell'intera degli interi uffici della Repubblica Francese. Quindi ci dà l'idea di quanto nel mondo questa cosa viene percepita. Non lo so, Beppe, siamo stati a Camogli settimana scorsa, ci sono posti migliori dei nostri per fare smart working? Penso di no. Ti rispondo fra un secondo. Volevo dire che la finale nel mondo della cucina, alimentazione, del gusto, la finale è sempre la stessa, come quella del 2006, Pier, Italia-Francia. Cioè, è sempre quella nel primo certo. elementare, quindi non c'è un campionato del mondo, c'è solo una finale in cui tutte e due le squadre sono molto forti, questo bisogna assolutamente, dire. Assolutamente. Lo smart working, se non hai una rete che funziona, certo. è una parola e basta. Certo, e certo. poi occhio alle donne, che non diventi una trappola per chiudere le donne in casa un'altra volta. Esatto, però che non diventi lo smart working sopra a quello che ci fa riconoscere in tutto il mondo, cioè l'artigianato, cioè la vecchia tra virgolette bottega e l'artigiano che lavora, perché noi siamo comunque riconosciuti per la manualità. Assolutamente. Smart working non ha nulla a che vedere con quello che però, è la manualità però, italiana. Ribadisco, in un'epoca in cui molti lavori, non tutti ovviamente, alcuni lavori si possono fare da qualsiasi parte del mondo, se noi ci dotiamo di strutture abbiamo i posti più belli dove stare, insomma, onestamente preferisco fare lo smart working a Positano o a, non so, a Marzamemi che nella piazzetta dell'Olmo di Cornaredo. I tifosi dello Schalke 04 si offendano perché Gelsenkirchen è un posto rispettabilissimo, di grande produttività, ma è un po' meno bello. Grazie a Beppe Severgnini. Il pensiero che invece mi viene in mente in questo momento è quello della crema di fagioli al nero di seppia e zenzero. Però potresti dirmela tu, tu leggi tre ingredienti su una ricetta, potresti farla la ricetta, allora, oppure la faccio io. Allora, i fagioli, la seppia e lo zenzero. Allora io direi metti i fagioli, facciamo, ci metti la seppia vicino, lo zenzero sopra. No, dai, cuociamo questi fagioli neri, per cui di legumi ce ne sono un'infinità. Per queste tre ricette ne ho scelto fagiolo nero, ho scelto le fave, ho scelto la lenticchia beluga, dopo vedremo anche quella ricetta. Per cui 400 grammi di fagioli che facciamo prima mollare in acqua fredda per una notte, poi li cuociamo una ventina di minuti, li scoliamo tenendo una parte, un terzo dell'acqua di cottura, per poi frullare questi fagioli. Un terzo di questi fagioli li avremo tenuti da parte e sgranati, quindi sbucciati leggermente, tenuti da parte da servire con la vellutata, un succo di zenzero che avevamo preparato precedentemente, più o meno 80 grammi di zenzero che abbiamo centrifugato, per cui questo gusto un po' piccante e profumato, che andremo ad aggiungere ai fagioli frullati con l'acqua, un pizzico di sale, un tocco di olio d'oliva, una macinata di pepe nero e poi una seppia in mezzo al nostro, andremo ad adagiare una seppia che avremo tagliato a piccoli pezzi, arrostita anche qui con poco olio extravergine d'oliva in una padella molto velocemente, ma del tipo 15-20 secondi di cottura. E poi cos'altro? Avremo recuperato anche il nero di seppia che avremo messo nella nostra vellutata, per cui la vellutata, i fagioli frullati, un po' di nero che dà il gusto di mare e che dà anche il colore. Poi in mezzo al piatto avremo la nostra seppia, intorno alla nostra vellutata leggermente piccante apposta anche per lo zenzero che abbiamo messo, e alla fine questi fagioli, questi se vogliamo anche dei ceci interi che avremo sbucciato e cotto a parte, per cui avremo la consistenza del legume intero, la consistenza della cremosità della salsa, della vellutata e poi la consistenza carnosa di questo pesce, di questo mollusco fantastica. Bene, molto molto interessante. Senti, oggi siamo su questo filo fra, come spesso succede, fra tradizione e innovazione. Io vorrei che tu ci presentassi Davide Zanesi, fondatore e amministratore delegato di Exterio. Vero, grazie, buongiorno Davide, sei con noi, è un piacere, è un piacere averti, perché ci tenevo a questo invito, perché parlando con alcune persone ho scoperto questa azienda o questo ragazzo che si chiama come me Davide, che mi ha preparato un microchip che metteremo su un dado, per cui sulla nostra tavola del do da settimana prossima avremo un dado che con l'NFC ti potrai collegare. Adesso Davide magari ci darà qualche numero, Davide, su chi, spiegaci come funziona, su soprattutto chi ha l'NFC, anche, chi non ce l'ha e chi lo usa. Anche su questo aspetto, quelle delle tecnologie legate al menu, c'è stata ovviamente un'accelerazione dovuta anche al lockdown. Però e a devo tutte dire le che ho visto oltre io, perché questo progetto mi è stato presentato per una linea di vestiti che stiamo facendo, ok? Per la cucina. A fare le due cose, Oldani, per non la essere sala, timido. E da lì ho visto questo microchip, ci siamo informati e abbiamo Exterio, si dice giusto, è giusto no Davide? Esatto. Abbiamo incontrato loro che ci hanno spiegato questo microchip, per cui avremo sul nostro tavolo questo programma nuovo che adesso Davide ci spiegherà. Abbiamo fatto circa 6 minuti di introduzione, credo che sia giusto. No, è importante. Vai Davide. Va bene, buongiorno a tutti. Niente, no, come ha giustamente presentato lo chef, la nostra azienda essenzialmente si occupa di sviluppare soluzioni in NFC. L'NFC in realtà è una tecnologia che usiamo tutti i giorni, le carte di credito contactless, se non l'abbonamento dei mezzi pubblici. È una tecnologia che è stata sdoganata negli ultimi 2-3 anni, in quanto la maggior parte degli smartphone sono compatibili con questa tecnologia, quindi basta attivare il lettore, avvicinarsi a questi circuitini elettronici e automaticamente si va a creare, diciamo così, un collegamento e un'esperienza per l'utente. Giustamente con lo chef, visto anche le problematiche legate al periodo Covid, era nata la necessità, diciamo così, di offrire un'esperienza diversa ai clienti del ristorante, quindi non fare il tradizionale menù come si vede attualmente, quindi tramite sistemi cartacei che sono a norma o tramite il QR code, ma essenzialmente direttamente sul cellulare del cliente andare ad apparire senza contatto, senza fare fotografie, il cellulare. Ah. Quindi basta attivare l'NFC, si posiziona sopra questo dado e ti appare il menù. E appare il menù direttamente aperto. Fantastico. Ripartiamo da qui, fra un secondo. Vai! Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191. 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, mangia come parli, puntata dedicata ai legumi. Vi ricordo, 349-239-0191 è il nostro numero per gli SOS Oldani. E vi ricordo che da questa puntata, insomma, il più goloso verrà omaggiato di una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Poi vi ricordo anche che stiamo parlando dei legumi. I legumi sono meravigliosi, sono ottimi nelle zuppe rustiche, nei piatti unici, sono un contorno fantastico per l'insalata. E poi parliamo anche di come si cucinano bene. Intanto abbiamo già sentito la crema di fagioli al nero di seppia e zenzero, ma siamo con Davide Zanesi che si è inventato questo sistema, questa tecnologia NFC che è veramente il best in class della nuova frontiera dei menù. Sappiamo che ci sono tutta una serie di implicazioni legate ovviamente alle precauzioni anti-Covid, per cui menù cartacei sono ovviamente proibiti perché possono portarsi dietro dei microbi e che è meglio evitare, e ci sono tante tecnologie col QR code, col telefonino, ma voi avete questa grande novità della NFC con il menu che appare direttamente sul telefonino. La spinta, insomma, filosoficamente, il lockdown è stato un problema, però vi ha spinto a dover diventare qualcosa di diverso, è così? Ma in realtà noi il lockdown è stato davvero molto produttivo, nel senso che probabilmente il fatto che le aziende abbiano rallentato un attimino l'iter tradizionale, no, interno, ha permesso di aprire anche a grandissime aziende che si stanno interfacciando con noi l'opportunità di inserire nuove tecnologie e aprirsi veramente all'innovazione in maniera molto forte. Noi ci siamo accorti che nei 2 mesi in cui siamo rimasti essenzialmente chiusi, in realtà anche lavorando da casa, siamo stati surclassati di domande e richieste. Quindi secondo me, come è tradizione italiana, visto che ho sentito anche prima l'intervento, come al solito, dalle difficoltà molto spesso può emergere qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo, e sicuramente l'introduzione delle tecnologie NFC in maniera più forte rispetto, diciamo, all'uso che ho fatto fino adesso, sicuramente può essere un trend molto trainante in questo periodo. Grazie Davide, in bocca al lupo. Grazie, e Davide. Complimenti. Mi piace soprattutto l'idea che dicevamo prima, no? Che tu sai, è di fronte alle difficoltà dallo l'ingegno. Spunto di una collaborazione che io ho di vestiti che utilizzeremo per il dopo corona, certo. Per cui igienizzati anche loro, avevo visto questo microchip e ho chiesto di arrivare a loro, a questo Davide, per cui l'abbiamo tradotto nella ristorazione. Bellissimo, molto molto interessante. Senti, fra poco facciamo la seconda ricetta, che sono fave al sale e paprika, ma intanto parliamo un po' della cottura dei legumi. Allora, quelli secchi devono essere lasciati a bagno per quante ore? 24 allora, ore? Così dice la storia, così dicono tanti libri, ma a parer mio, se tu hai un utilizzo di una pentola a pressione, puoi evitare anche le 24 o le 48 ore di ammollo. Per cui si dividono in freschi o secchi. La cosa buona del legume è che c'è tutto l'anno, per cui non so, le fave, i piselli li trovi freschi nella primavera, però se vuoi c'è una parte essiccata che puoi mangiare anche nel mese di dicembre, per cui in tutto l'anno tu puoi permetterti di utilizzare. Qual è il più interessante? Se dovessi il tuo legume del cuore, qual è? Del cuore ti posso dire che ho scoperto un po' di anni fa è la cicerchia. Ah beh, a Cicerchia, come dicono a Napoli, o a Capri, per cui ha questo profumo intenso di legume. È possibile utilizzarlo, il cannellino. L'altro che qui ho in maniera provocatoria l'ho messo e lo metterò nella lenticchia beluga, ma il fagiolo bianco dell'occhio di latte come si chiama, Liguria. Ci sono veramente una varietà infinita di legumi e poi devi giocarci un po' tu come utilizzarli, perché dalle vellutate alle zuppe, alle farce per i ravioli, certo. Pasta farcita italiana, certo. Fatta con un legume, secondo fantastica. Me è fantastica, per cui hanno mille opportunità e poi in più l'opportunità di mangiarle a crudo, certo, perché nel momento tu fave con cosa lo abbineresti? Le fave e pecorino, voilà. E poi ci aggiungiamo due bucatini e siamo a posto. No, io dai, fave e pecorino è proprio l'essenza. No, devo dire che chi qualche volta nei momenti proprio drammatici della mia vita, nel senso magari quando non avevo voglia di cucinare, cioè la prima cosa che faccio, apro una scatola di lettiche. E poi di da quando mi sta censurando, perché non so che fa schifo questa roba qua. No, vabbè, magari non avete sentito, no. Metti un beep nell'altro la scatola, dirti, mettiamo posso beep dirti. E guarda siamo che posto. Tante volte ho risolto, no. poi con l'olio extravergine d'oliva italiano di qualità. Va bene. No, poi ci sta, devo dire che quella cosa che tu hai detto sale. Sul legume, l'omo campa, diciamo noi a Roma, l'omo campa. Sul legume, tra virgolette, una scatola buona, una buona produzione ci può stare, perché comunque il legume ha bisogno di una lunga cottura, certo. La conservabilità deve essere comunque coperto anche dalla luce, per cui può anche andare bene. Naturalmente io prediligo ovvio. Il fresco, ma non e c'è poi dubbio. Negli ultimi anni ho scoperto nella nuova cucina, nuovo modo di far cucina, che anche la parte esterna può essere mangiata. Cioè il contenitore del fagiolo o del tipo il fagiolo di Spagna, piuttosto che i piselli o piuttosto che le fave, tu li puoi utilizzare per fare altre zuppe, per dare un ulteriore profumo del legume. È un assist perfetto, perché praticamente mi stai dicendo che non si butta niente, giusto? Che è un po' il concetto, la filosofia di Valentina Raffaelli, autrice del libro Scarti d'Italia, edito da Corraini Edizioni. Non si butta niente, è vero Valentina, me lo confermi? Valentina, buongiorno. Ciao. Esattamente, buongiorno, stavo ascoltando, è stato un assist perfetto, esatto, per introdurre l'argomento. Quali sono gli scarti più interessanti? Perché il tuo è un viaggio da nord a sud, che parte da una filosofia che fra l'altro, insomma, vabbè, io sono qui semplicemente un umile conduttore, ma insomma è la filosofia del maestro Oldani, no? Cioè l'idea, ed è una filosofia di grande sensibilità anche a tutti i temi ambientali e dello spreco, no? La lotta allo spreco alimentare e soprattutto l'intelligenza di comprare il giusto, di non buttar via niente e di saper utilizzare e riutilizzare gli alimenti. Tu hai fatto un viaggio in giro per l'Italia. Esatto, io ho fatto un viaggio di 12 mesi in giro per l'Italia, da nord a sud, scavando nella tradizione italiana tutte quelle ricette che appunto non buttano via niente. Diciamo che fino a due generazioni fa era un concetto largamente, quotidianamente diffuso, insomma, non solo dai grandi chef, ma in tutte le case. E invece ultimamente questa tendenza si è invertita e adesso è la domanda a determinare l'offerta. Valentina, pomodori tutto l'anno. Sì. Scusami, a parte il maiale e il tonno di cui insomma quarto lo diciamo, è il grande protagonista del libro, ok, no? Esatto. Un ingrediente, visto che hai viaggiato per 12 mesi in Italia, un ingrediente che ti ha colpito, che non avresti mai pensato di trovare nell'utilizzo totale al 100% del prodotto, qual è che hai trovato? Allora, stando sui vegetali, che non è l'argomento del libro, però è un argomento assolutamente interessante, appunto i baccelli dei legumi. Vedi? Sono saporitissimi, sono dolci, hanno un sapore veramente peculiare, ma tantissime verdure, il sedano rapa. Il brodo fatto con la buccia del sedano rapa è un po' terroso. Vedi che qui intervengo io, la grande cucina, il fine dining, come è entrato nella cultura e nella tradizione italiana, perché queste cose dal brodo di sedano rapa fatto con la buccia, quindi un po' terroso, alla buccia della banana, a quello che dicevamo poco fa degli altri legumi del bacello, sono arrivati ad essere così popolari e importanti perché c'è stato 15-20 anni fa il reintegro dell'italianità nella grande cucina, per cui da lì sono stati sdoganati ad arrivare a queste grandi cose. Bene, io ve lo consiglio perché è pieno, ovviamente, soprattutto per gli appassionati di Quinto Quarto, va detto, ma è pieno di idee, veramente da nord a sud, per non buttare niente, per trovare nuove frontiere del gusto, fra l'altro con delle illustrazioni molto divertenti di Luca Boscardin. Quindi complimenti Valentina, in bocca al lupo, e non buttiamo nemmeno via le fave al sale e paprika, che sono la nostra seconda ricetta. Questo è un piatto molto semplice, dove dobbiamo solo recuperare la fava bianca grossa, secca, che mettiamo in ammollo anche qui con un po' di acqua fredda, perché la cottura non sarà bollita ma sarà fritta, per cui io direi che per questa preparazione un 24 ore di ammollo in acqua fredda ci può stare. Poi vengono scolate, asciugate, io le faccio friggere in olio, io utilizzo un olio di semi di arachide naturale puro a 160 gradi, per cui non raggiunge il punto di fumo, ma frigge e cuoce la fava. E poi cosa faccio? Una volta scolate, le asciugo per bene, un pizzico di sale, un po', magari un tocco di zucchero a velo, appena per dare quel dolce giusto. E poi, se vogliamo, possiamo utilizzare o un po' di paprika, se la facciamo anche a casa, che dà il leggero piccante, oppure mi viene in mente una spolverata di curry, oppure una spolverata di sumaco. Il sumaco è in questo caso una polvere fatta con gli agrumi, che si usa molto in Sicilia. Ecco, mi sono fatto un sumaco. Facciamoci. Sai qual è il piatto? De Luca, Ferronato, ci facciamo un sumaco stasera. Voglio dedicarti un piatto per questa puntata. Cascio, pepe e sumaco. No. Di legume abbinata a un grande. Qui c'ho davanti. C'era descritto Valentina, un maiale. Piatto più classico tra legume e maiale è la cassoulette, quella francese. La cassuera, come dici tu. Non pieghi. Quelli con tutti gli altri lombardi. E la cassoulette è un pot, è una pentola di inghisa molto importante, dove è a strati una parte di maiale, una parte, qualcuno mette la verza, qualcun altro usa altre verdure invernali, e poi c'è uno strato di legume, in questo caso il fagiolo bianco rotondo, per cui va a strati e poi gratinata in forno. Meraviglioso. Fra poco mi devi raccontare il resto del pranzo per Mattarella e Steinmeier dell'altro giorno. Ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo a essere soldati, fra l'altro col libro e poi altre ricette, spazio news, eccetera. Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività. Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà. Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare. Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa, sono tante le storie che ci racconta la bici e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con A Ruota Libera, ogni domenica alle 16. Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Mangia come parli. Vi ricordo 349-239-0191 per i vostri SS Soldani. Fra l'altro, da questa settimana il più goloso riceverà il libro di ricette di Mangia come parli, quindi un motivo in più per mandare i vostri WhatsApp vocali. Allora, mi racconti il momento più emozionante del pranzo col presidente Mattarella? Lo ricordiamo, quando è stato? L'altro ieri? Giovedì, sabato. L'altro ieri sabato, vabbè, capisci com'è. No, è molto emozionante perché la cosa più bella che mi poteva capitare era quella del suo ricordo del nostro presidente, che mangiò il mio riso zafferano alla milanese 5 anni fa e appunto ho avuto questo desiderio di poterlo fare. Per cui è stato emozionante il fatto della richiesta. Hai fatto delle porzioni abbondanti o ci siamo fatti parlare dietro? Non è che Steinmeier, il presidente tedesco, è tornato a casa e dice è buono. Anzi, grandi complimenti. Abbiamo servito un riso al dente come il fo, cioè all'italiana, alla milanese, ed è stato apprezzato per quella che era. Perché tu sai, per chi non è abituato a mangiare i nostri risotti, mangiare un riso al dente è la prima cosa che ti esce. Sei un po' timido, ma è vero che ha detto il più buon riso della mia vita, ha cominciato a urlare. Non lo so, adesso non esageriamo. Però ho visto grandi sorrisi, qualcuno ha azzardato anche un applauso, per cui mi ha emozionato. Alle emozioni non ci sono parole, per cui non sapevamo più, meno male avevo la mascherina davanti, per cui non sapevo se ridere, se piangere, se tremare, ed è stato molto bello proprio perché tutte le persone che erano lì erano unanimi su quello che era la qualità del cibo italiano. Ci tengo a precisare, in questo clima che c'era di amicizia, di voler crescere, di voler passare, andare oltre il virus, la cucina, il prodotto italiano l'ha fatta un po' da padrone. Questo mi ha emozionato tanto. Faccio news, vai! Allora, parte dal ferrarese, continuiamo a parlare di Made in Italy, la prima filiera dell'arachide tutta italiana, al via il primo raccolto, è nata una collaborazione tra il gruppo BF Spa, il gruppo SIS, Noberasco e Coldiretti, e l'obiettivo è quello di riattivare nei prossimi anni una coltivazione che potrebbe arrivare a coprire 30.000 ettari sul territorio. Dopo 50 anni è un grande ritorno per il Made in Italy e ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo. La spesa degli italiani vola nel primo semestre, più 9,2%, con i negozi tradizionali discount che sono alternativa ai super. C'è stata ovviamente, per ovvi motivi, una scelta rivoluzionaria di forma distributivi. Il canale prevalente resta quello dei supermercati con una share del 43%, ma è cresciuta anche la spesa nei discount 11,7% e dei negozi di prossimità e di piccole dimensioni più 30%. E, insomma, è chiaro che sono stati mesi complicati, tutto l'oreca, cioè tutto il settore alberghi, ristoranti e catering ha sofferto tantissimo. La spesa invece all'interno delle case è aumentata un po' perché insomma si stava a casa, si mangiava, e sappiamo che anche dal punto di vista psicologico il cibo di qualità ha rappresentato un conforto però con grandi riflessioni e secondo me con ottimismo abbiamo tutti quanti o gran parte capito com'è difficile il mondo della cucina e abbiamo cominciato a riconoscere la qualità dei prodotti perché cucinati e mangiati in casa. Agricoltura biologica, dall'Europa 40 milioni per aumentare la produzione, l'obiettivo è arrivare in 10 anni al 25% di coltivazioni senza chimica, l'Italia è già al 15%, il doppio della media dell'Unione Europea, e anche qui insomma poi si può pensare ovviamente quello che si vuole, però c'è un piano importante da parte della Commissione Europea, una consultazione pubblica che si chiuderà il 27 novembre per raccogliere tra l'altro le osservazioni dei cittadini, utilità nazionali e operatori, ma insomma arrivano soldi anche in questo settore e anche questa può essere un'opportunità sicuramente da non sprecare. Così riapriranno le mense scolastiche, stanno riaprendo, le strategie dei big in un settore da 1,3 miliardi e tutti i vari big da Kansta, Pellegrini, da Elior, da Cheerfood stanno ovviamente riprogrammando la riapertura delle scuole e lo stop ha azzerato anche qui tantissimi ricavi, si stimano 320 milioni di euro di ricavi. Speriamo che l'obiettivo sarà quello o sia quello di guardare solo la qualità. Perché con la qualità hai i ricavi puliti. E poi chiudiamo proprio in dolcezza e in bellezza. Nasce fra le tante cose che nascono e che ci danno speranza l'Accademia Maestri del Lievito Madre del Panettone. E anche qui l'obiettivo è la tutela della qualità e della tradizione. Io do il benvenuto a Claudio Gatti, che è presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre del Panettone Italiano e ha la pasticceria di Tabbiano Terme, provincia di Parma. Sono stato recentemente a occuparmi di prosciutto, ma insomma anche quei dolci lì ci date dentro. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, che cos'è questa accademia? È un'accademia di grandi maestri che facciamo panettoni da tantissimi anni, abbiamo la cultura come del lievito madre e vogliamo tramandare questo nostro metodo di lavoro che si viene tramandato da generazione a generazione anche le nuove leve per il futuro, le nuove generazioni. Quindi abbiamo creato questa accademia e vorremmo essere un po' i maestri ambasciatori nel mondo per far conoscere, per titolare questa grande cultura del lievito madre e del panettone italiano. Quando io sento questa R parmigiana impazzisco, devi saperlo. Il topolino. Devi saperlo, Claudio. L'avete presentato ovviamente al Gastronomy Hub di Parma, sempre giovedì, mentre il professor Oldani cucinava per Mattarella. E la difficoltà del panettone, io l'altro giorno proprio mentre ero a Langhirano mi sono fermato con alcuni amici e colleghi, a un certo punto è venuto fuori il concetto del panettone. Il panettone è di una difficoltà è di una difficoltà, però c'è tanta storia dietro che si racconta. Tante volte, se sei d'accordo con me, Claudio, si accentua per far vedere che la cosa è difficile, ma quando uno ce l'ha nel sangue, quando uno dedica del tempo, secondo me è una cosa molto semplice. Sì. Vuoi raccontarci velocemente il tuo lievito madre? Perché tutti parliamo di lievito madre. Nel lockdown tutti hanno fatto il lievito madre a casa, però molte volte, che io ho seguito, insomma, ho visto, il lievito madre è fatto con un rinfresco di un lievito di birra, per cui lì diciamolo che è sbagliato. È lievito madre, dimmi due parole veloci per partire. Spontanea, viva. Quindi non abbiamo altro metodo che lievitazione naturale, spontanea, e non dobbiamo aggiungere né lievito di birra né lieviti secchi, niente di tutto questo. È una cosa che vive con noi tutti i giorni, lo rinfreschiamo spessissimo, dico tutti i giorni perché a volte non è necessario, però è una parte di noi, una parte che riempie anche la nostra giornata. Il segreto del lievito madre qual è? La cosa più importante, confermi che sono le temperature, per cui se non hanno una determinata temperatura, che tu adesso ci dirai, i batteri, i profumi svaniscono, poi ahimè lo dico, muoiono, per cui non si rigenerano più. Esatto, no, dobbiamo tenere dei giusti equilibri, vuol dire non farlo andare troppo in acidità, non deve essere troppo basico, dobbiamo mantenere la temperatura, diciamo che gli impasti, specialmente il panettone, non si rovinano mai usando delle temperature basse, ma si rischia di usare temperature alte. Quindi per noi ormai maestri del lievito madre usiamo lievito come quando usiamo una pasta frolla, faccio per dire che è una cosa molto semplice, perché conosciamo già le nostre temperature, conosciamo i nostri ambienti, il nostro lievito si è ambientato con i microorganismi, con le nostre umidità, le nostre. Quindi per noi lavorare al lievito madre è una cosa semplicissima, però dobbiamo sempre rispettare i tempi, le temperature, come hai detto tu Davide, che sono importantissime, e una buona farina, che è anche questo chiaro, importante, chiaro. E poi avere un buon palato, di assaggiare il lievito per capire in che stato di salute è. Andiamo con gli SOS Oldani, vi ricordo il numero 349-239-0191, vai! SOS Oldani. Marco da Firenze. Salve chef, una domanda, come si fa a friggere con il lardo? Perché noi siamo abituati all'olio d'oliva e mi sembra piuttosto complicato. Grazie. Eh sì, anche perché il lardo è un grasso molto solido e carnoso, per cui sarebbe una cosa quasi infattibile secondo me, perché andrebbe fatto fondere da quella fusione che c'è, estrarre quel grasso, ma devo dire che si può anche evitare. Io andrei tranquillamente su un olio extravergine d'oliva, oppure come faccio io di solito, olio di semi di girasole o di arachide. Grazie da Castano Primo. Volevo farvi questa domanda: come mai i fichi secchi provengono quasi sempre sia da Turchia o da Marocco e non riesco a trovare quelli provenienti dall'Italia? Capisco che la produzione sarà minore, però nei supermercati non li trovo. Grazie, buongiorno. Ecco, produzione minore assolutamente, però ricordiamo, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate quando abbiamo toccato il tema fichi, che Campania, Puglia, Sicilia c'è una forte produzione di fico italiano. Per cui bisogna solo, secondo me, fare quello che ci dice il buon senso, se ci sono, guardare l'etichetta, se siamo d'accordo prenderli, o altrimenti aspettare la stagione dell'italiano. Rosario da Trevedona Monate. Salve chef, ho comprato degli scampi e su uno ci ho trovato sopra delle piccole palline verdi che sembravano uova, lo erano? E se sì, sono commestibili? No, devo dire, forse se è confuso, perché la parte verde è l'intestino all'interno, la parte esterna sono più arancioni le uova. Ok. Un arancione molto sbiadito, e direi di sì, sono, vuol dire freschezza. Anzi, quelle uova le leverei, un goccino di olio d'oliva extravergine, un pizzico di sale, le mangerei così. Proprio sempre il concetto non si butta niente, ovviamente, delle cose commestibili, delle cose sane, che anzi sono un indice di freschezza. Allora, dobbiamo scegliere fra Marco, grazie a Rosario, a chi regalare il libro di Mangia Compagni? Io direi come facciamo? Decidi tu, devi scegliere più goloso. Io dalla domanda io direi grazie, perché insomma, è più intrigante, più italiana questa cosa dei fichi. Vabbè, della ricerca del prodotto italiano, per cui grazie da Castano prima. Castano, che Castano? Castano. A Castano? Ho sbagliato io. Se vuoi, diciamo, poi dalle parti due è bravo. Castano primo, non è Castano. Però sai, io non intervengo, per cui so che tu sei tipo biondo secondo, che è vicino a Malpensa. Castano primo, esatto. Vedi? Esatto. Chiedo scusa a tutti i castaneti primi. E noi andiamo a trovare l'ennesima eccellenza nel mondo dei legumi con quest'ultimo piatto, che sono le lenticchie beluga, panacida e blinis. Facilissima, lenticchie beluga le ho selezionate in questi tre piatti perché è una lenticchia che in maniera ironica ricorda il caviale e difatti è chiamata beluga. È facilissima, prepariamo un blinis fatto con 150 ml di latte miscelati con 2 g di lievito di birra, facciamo lievitare il tutto, una volta che abbiamo l'impasto con un pizzico di sale, un pizzico di zucchero volevo aggiungere, una volta passate le 2 ore che ha lievitato, rompiamo la lievitazione e aggiungiamo un albume d'uovo montato precedentemente. Dopodiché faremo scaldare i nostri padellini, se volete anche antiaderenti, metteremo un cucchiaio di questo impasto e per cui lo faremo cuocere da un lato e dall'altro. Avremo tipo dei cuscinetti molto teneri, molto morbidi, quindi il classico abbinamento blinis viene normale, mettere il caviale e poi la pannacida. In questo caso io a parte ho preparato queste lenticchie sgranate, la cottura sono più o meno 20-25 minuti in acqua bollente salata, poi scolate, messe sopra il nostro blini e poi l'ultimo tocco, leviamoci la soddisfazione, un cucchiaio di panna acida, la crème fraîche, quella francese che in Italia è difficile da trovare, nel caso non la trovaste si potrebbe mettere o fare una panna montata con un tocco di succo di limone. Bene, mi sembra veramente tutto assolutamente perfetto. Grazie Oldani, grazie. Mi hai fatto godere anche oggi con i legumi. Vado stasera a Verona, comincia il campionato, ricomincia la stagione, ricomincia la vita. Che sia, sai che il giorno in cui ricomincia il campionato per tutti noi calciofili è un po' come Capodanno. A proposito, devo informarmi dove potrò vedere la partita io. Sul DAZN o sul 209 di Sky, cioè. Ma contro chi gioca l'Inter? No, ma l'Inter non gioca adesso perché è rinviata la partita col Benevento. Stasera c'è Hellas Roma. Vabbè, dai, su. Non era aggiornato, Piero. Scusa, bisogno di questo. Vabbè, domani c'è il Napoli di De Luca a mezzogiorno e mezza. Grazie ciao. A Ferronato. Grazie ciao, a ciao a tutti. Ciao, Piero. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.